Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, sì, vedo che già qualcuno scrive sul gatto, il rimbalzo del gatto morto. Allora, siamo stati facili profeti, lo dico perché non abbiamo nessuna capacità divinatoria né di analisi e di previsioni sui mercati, però siamo stati facili profeti nel dire ieri: attenzione, quando una borsa fa meno 3, meno 4, meno 5, poi fa più 5 e i titoli passano da meno 14 o meno 9 a più 7, c'è qualcosa che non va. Attenzione che in questo momento stanno guadagnando solo gli speculatori e chi fa mordi e fuggi sul mercato borsistico. Perché lo dico? Perché oggi di nuovo è tutto in pesante calo, di nuovo il FTSE MIB è sotto i 16.000 punti, come i nostri GR24 vi hanno ricordato, 15.900 punti, meno 4,85% Milano in questo momento, meno 3,50% Parigi, meno 2,40% Francoforte, meno 1,90% Londra, il Dow Jones meno 2%, l'euro in rafforzamento leggero ma 1,13% sul dollaro. Oggi sta andando male tutto, nel senso che poi uno può dire certo i cali delle banche, abbiamo visto anche di peggio, ho capito, non ci si può nemmeno abituare però a cali tra il 6% e il 10%, perché insomma se io prendo le banche oggi, UBI Banca meno 11,80, Monte dei Paschi meno 9,30, Banco Popolare meno 8,5 come la Popolare Emilia Romagna, e poi Unipol meno 7% come Azimut, Generali meno 7,5%, Unicredit meno 6,60, Intesa San Paolo meno 6,30, Unipol Sai meno 6,20 e per andare sulle banche, restare sulle banche meno 5,30 è il calo di Mediobanca. Poi per carità va male anche tutto il resto, Saipem meno 8,37% a praticamente adesso vale 33 centesimi di euro, CNH Industrial meno 7,91, Telecom meno 7,60, Ferrari meno 6,70%, ancora Finmeccanica meno 5,60, Buzzi Unice meno 5,5%, Eni meno 5%, Campari meno 4,80, Prismian meno 4,5%, Fiat Chrysler meno 4,30%, Atlantia meno 3,70%, mi fermo con chi perde più del 3%, Luxottica meno 3,5%, Hughes meno 3,20%, Exor meno 3%. Quindi cali forti, fortissimi di nuovo sui bancari, che vengono da sedute intere. Ieri ricordavamo come, nonostante qualche rimbalzo, o meglio qualche mossa speculativa, insomma siamo tornati sui livelli del 2013, a questo punto forse anche prima dell'estate del 2013, come le banche italiane mediamente come settore abbiano perso il 33-34% da inizio anno, e ragionamento analogo si può fare anche per altre grandi banche, in media tra le francesi, le tedesche e le spagnole hanno perso intorno al 25% da inizio anno, le due principali tedesche più del 30%. Segnalo che oggi, visto che c'è qualcuno che mi scrive su Deutsche Bank, che oggi al di là dell'andamento del titolo, i CDS, ossia il premio che si paga per assicurarsi sul rischio fallimento, lo spieghiamo sempre così, i credit default swaps, sono saliti ulteriormente su Deutsche Bank e hanno superato il livello di Unicredit, che vuol dire che i CDS a 5 anni sono balzati a 265 punti per Deutsche Bank, Unicredit è a 245 punti. Niente panico, per favore. Però a chi mi dice ma lei forse su Deutsche Bank esagerava, non sono io, è il mercato che continua a aumentare il prezzo dell'assicurarsi su Deutsche Bank, quindi il premio, come lo chiamiamo noi, pagato come un premio per un'assicurazione auto, pagato per assicurarsi. 265 punti, faccio notare che Deutsche Bank due settimane fa aveva 90 punti di CDS. Allora, in una giornata così dico va male tutto, perché? Perché anche il petrolio ha contribuito a deprimere i titoli legati al settore energia, è in calo New York a $26,60, il 3%, l'oro invece inizia a muoversi in maniera più strutturale dopo questa incertezza globale, è ancora più 4% quasi a $1,239 l'oncia. Che cosa sta succedendo? L'abbiamo spiegato molte volte, per quello che riusciamo a capire, beh, è chiaro che si è scatenata un'ondata ribassista, nel senso che nessuno vuole stare lungo sui mercati, nessuno vuole investire nel medio termine, si preferisce abbattere soprattutto i titoli bancari, vendere magari allo scoperto, quindi guadagnandoci, e poi magari aspettare il rimbalzo dei titoli come è avvenuto in alcune sedute. C'è una massa di liquidità enorme, ecco perché vengono chiamate non in causa come artefici, ma come soggetto che viene coinvolto le banche centrali. I rendimenti dei titoli di Stato nell'area euro, ma in parte anche negli Stati Uniti, in buona parte, sono molto deludenti, non proteggono da quel poco di inflazione che c'è, ma soprattutto non hanno grandi rendimenti. Questa massa di capitali che deve produrre un rendimento ha deciso di levarsi dalla borsa nel medio-lungo termine, quindi non crede più a un investimento nello specifico nei titoli bancari. Perché? Perché secondo varie dichiarazioni si vuole vedere che fine farà questo bail-in, quindi il salvataggio interno, l'unione bancaria europea, nel caso specifico delle banche europee, e non c'è certezza su quello che è realmente in pancia ad alcune banche, Deutsche Bank non solo, in Italia è chiaro che il tema sono le sofferenze bancarie. Ma nel caso di Deutsche Bank sono gli investimenti fatti a suo tempo in strumenti derivati e come sono contabilizzati a bilancio. Detto questo, nessuno vuole investire appunto a stare lungo, e al massimo quello che notiamo è un rimbalzo tecnico come quello di ieri, che permette appunto alla speculazione di guadagnare, ma null'altro. Come si interrompe questa spirale, diciamo, negativa di sentiment, come dicono gli inglesi, negativo nei confronti del mercato? Beh, con iniziative particolari. Il problema è che in questo momento nessuno riesce a vederle, perché è chiaro che le banche centrali, nello specifico, la Bank of Japan ha portato i tassi negativi, la Banca Centrale Europea ha fatto buona parte di quello che poteva fare, tassi praticamente a zero, quantitative easing, quindi stampaggio di euro, di moneta, di euro, per dare liquidità alle imprese e anche e acquistare titoli di Stato dei vari paesi dell'Unione Europea, e poi la possibilità data alle banche di accedere a fondi a un tasso molto agevolato purché li reinvestano nell'economia reale, fatti salvi i mutui. Non è che Mario Draghi abbia ancora tantissime cartucce, e questo è un po' il problema, lo è per l'Europa e lo è anche per gli Stati Uniti, dove Janet Yellen anche oggi numero uno della Federal Reserve è tornata a dire: avevamo previsto un apprezzamento del dollaro anche se non di questa entità, ma non avevamo previsto questi movimenti nei prezzi del petrolio. Ma insomma, è una missione di quantomeno di incapacità di aver letto una situazione. E anche lì, a parte dire che probabilmente andranno più lenti nel rialzare i tassi di interesse, non è che possa dire molt'altro la Federal Reserve. Questo scenario di incertezza, per cui non si capisce nemmeno cosa potrebbero fare le banche centrali, e in assenza di una risposta della politica, io adesso so già che direte che me la prendo con la Germania, però mi chiedo come sia possibile che, visto che oggi c'è un vertice europeo molto importante dell'Eurogruppo e partecipano i ministri economico-finanziari, il presidente dell'Eurogruppo, che è l'olandese Ron Dijsselbloem, che noi già conosciamo per alcune frasi un po' improvvide su Grecia e Italia a suo tempo, comunque dice: il rafforzamento delle banche continua e continuerà ed è l'obiettivo della presidenza olandese. Oggi parleremo della situazione economica e potremo fare alcune considerazioni sui mercati, che sono molto volatili, ma non sono sicuro ci siano motivi strutturali. Siamo in una posizione migliore rispetto a 6 anni fa, anzi molto migliore rispetto a 6 anni fa. E Schäuble, invece, il ministro delle finanze tedesco, che dice: la volatilità del settore bancario è leggermente esagerata. Ora, insomma, io non so se improvvisamente Schäuble abbia scoperto gli eufemismi, non è mai stato uomo da eufemismi quando bisognava parlare di Grecia o di Spagna o di Italia o di Portogallo. A me sembra la barzelletta, come ogni tanto ricordiamo, di quello che cade dal grattacielo e a metà della caduta gli chiedono come va e lui risponde: beh, fin qua tutto bene. Nel senso, come si fa a dire leggermente esagerata? È da inizio anno che anche le banche tedesche hanno perso un terzo del valore di borsa, senza un motivo o con un motivo, questo lo vedremo, ma insomma, dire che è leggermente esagerata, va bene. Il nostro ministro dell'economia Padoan dice invece, entrando nell'Eurogruppo, ci sono movimenti sistemici slegati dal fatto specifico dell'Italia, questo è anche vero, lo hanno riconosciuto varie fonti europee, e poi aggiunge il bail-in, il salvataggio interno, va introdotto con delicatezza, non è un problema di cambiare le regole, è un problema di transizione verso il nuovo regime. È chiaro che in questi giorni ci sono dei movimenti sistemici non solo in Europa ma in Asia, negli Stati Uniti, che colpiscono in particolare il settore bancario, legati alle prospettive di crescita globale che cominciano a essere meno incoraggianti di qualche mese fa. Quindi non c'è un fattore specifico. L'Italia, come ieri si è deciso il Consiglio dei Ministri, continua con la strada delle riforme e delle misure di sostegno in questa fase in cui la gestione delle sofferenze è particolarmente importante. Abbiamo introdotto ulteriori misure che faciliteranno questa questione, oltre naturalmente a introdurre un importante elemento di riforma con le banche di credito cooperativo. Non vedo questa connessione, quindi è chiaro che il bail-in è un nuovo regime, bisognerà introdurlo con delicatezza e con la necessaria gradualità. Ho detto che bisogna introdurlo, non ho detto che bisogna cambiarlo, quindi è una parola di transizione a un nuovo regime di politica regolatoria. Questo vale per il bail-in, vuole come qualunque regime di politica regolatoria. Sto guardando le decine di messaggi che arrivano al 349-238-6666 sia su WhatsApp sugli SMS e poi il sito. Sì, cerchiamo di rispondere. È chiaro che c'è anche una crisi di domanda e questo lo abbiamo ricordato quando lo stesso Mario Draghi ha sottolineato come l'inflazione sia ancora molto deludente, ma non è solo deludente negli Stati Uniti, in Europa. Anche in Giappone ha un andamento deludente e oggi pensate che la banca centrale svedese ha tagliato di mezzo punto percentuale i tassi di interesse in Svezia perché sta venendo meno la fiducia di poter far risalire l'inflazione verso l'obiettivo del 2%. Qui è chiaro che andrebbe distinto tra l'inflazione che non c'è perché il petrolio costa pochissimo, quindi la cosiddetta inflazione importata, però non c'è nemmeno l'inflazione interna, quella sana, quella che dimostra che l'economia si sta muovendo e che i consumi ripartono e quindi a questo punto anche i prezzi iniziano un po' a risalire. Non c'è nessuna delle due. Allora, che non ci sia quella importata va bene, ma che non ci sia quella sana è quello che preoccupa le banche centrali. Poi dicevamo di Hong Kong questa mattina, ha riaperto dopo il Capodanno cinese, è la prima a riaprire dopo il Capodanno cinese e tanti auguri. Meno 3,87%. Shanghai, se non ricordo male, aprirà domani adesso controlliamo, forse lunedì. Su questo non abbiamo gli ultimi aggiornamenti, per modo di dire, ma al di là che aprono Shanghai domani, oggi è tornato a precipitare in Russia anche il rublo, è scambiato 89,89 sull'euro, 79,40 sul dollaro e su questo devo dire che a chi mi dice ma perché non parlano le autorità, allora, la BCE aspetta. I governi, secondo me, non sanno che cosa dire, e questo è drammaticamente un dato che alimenta ancora di più la speculazione ribassista. Modestamente, noi come gruppo Sole 24 Ore, domani spiegheremo sul giornale tutti i consigli utili per sopravvivere nei giorni della grande volatilità, come ormai vengono chiamati, giorni in cui i mercati appunto sono sulle montagne russe, ma veramente sulle montagne russe. E cerchiamo di dare consigli su cosa fare sui risparmi, sia chi deve ancora investirli, sia chi li ha già investiti. Michele dello spread italiano è tornato a 150 punti base. Abbiamo collocato oggi BTP a 3 anni, molto buono ancora il rendimento, anche se è risalito dallo 0,02 allo 0,1%. La domanda però è buona: di debito italiano 1,6 volte l'importo offerto, collocati quindi tutti i 5 miliardi, cioè 3 miliardi e mezzo, 3 miliardi a 3 anni e 2 miliardi e mezzo di BTP a 7 anni, che rende l'1,05% lordo contro lo 0,99% precedente, e i BTP a 15 anni che ha un tasso del 2,08% di rendimento lordo annuo. Allora, molti di voi mi chiedono: ma cos'è sto bail-in? Il salvataggio interno, la regola che vale per tutte le banche dell'area euro dal 1 gennaio, per cui se dovesse fallire o iniziare ad avere problemi di patrimonio una banca, non farà più il bailout, cioè verrà aiutata dall'esterno, il salvataggio esterno, sostanzialmente dai soldi dei contribuenti, ma verrà aiutata, per così dire, nel salvataggio prima dagli azionisti, poi dagli obbligazionisti di qualunque livello, sia senior che non senior, e poi anche dai, eventualmente se fosse necessario, dai correntisti sopra i 100.000 euro. Allora si dice, attenzione, questo bail-in non lo può introdurre così di fretta come è stato pensato, e soprattutto manca un'altra gamba, aggiungo io, e cioè la responsabilità degli amministratori, la parte che chiama in causa gli amministratori. Detto questo, il bail-in fu ideato dopo la crisi di Cipro col principio, se vogliamo anche giusto, che una crisi bancaria non la devono pagare i contribuenti dell'area euro nella sua interezza. Peccato che, come sappiamo bene, prima di introdurre bail-in, Germania e anche Francia si siano sistemati con aiuti di Stato le loro banche, ma si poteva fare. L'impatto sull'economia reale, allora bisogna capirsi, è chiaro che quando una banca perde un terzo della capitalizzazione in un mese e mezzo non devi essere un genio per capire che si blocca un po' tutto nei piani di investimento e di erogazione del credito. Adesso però arriviamo anche a quello che ha deciso il governo ieri e cerchiamo di spiegare cosa cambia in particolare per le BCC e poi invece per quello che riguarda la cosiddetta bad bank, ossia la possibilità di cartolarizzare le sofferenze bancarie. Prima di tutto però un commento, come sempre in onda anche su RDS, e quindi con me, i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Il commento è dedicato ovviamente all'andamento di oggi delle borse e la firma del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Capire che cosa stia accadendo sui mercati finanziari in questi giorni non è assolutamente facile. Siamo in una fase di turbolenza che è determinata da tanti fattori. C'è il rallentamento della crescita globale, c'è il prezzo del petrolio che resta a livelli troppo bassi, ci sono le incertezze sullo stato di salute del settore bancario in tutta Europa. È una fase di turbolenza, peraltro, di cui nessuno riesce a vedere la fine. Quanto basta per mettere in allerta gli operatori che giorno per giorno si trovano a fare i conti con i balzi degli indici all'insù o all'ingiù, come avviene oggi, nell'ordine del 4-5%. Questo è il motivo per cui in queste ore sta tornando un rilevante interesse verso i beni rifugio. Che cosa accade? Accade che di fronte all'ondata di vendite che continua a investire i mercati finanziari, gli investitori puntano su alcuni beni tradizionalmente considerati più sicuri nelle fasi di instabilità. L'oro, per esempio, certamente il bene rifugio per eccellenza, oggi molti acquisti con il prezzo che si è portato ben oltre i $1,200 e che è aumentato del 14% dall'inizio dell'anno. Ma oggi si sono visti anche molti acquisti su altri beni considerati sicuri, i titoli di Stato americani o anche quelli svizzeri, peraltro in questo caso addirittura scontando rendimenti negativi. E poi il Bund tedesco a 10 anni con i rendimenti sui livelli medi, cosa che tra l'altro spiega anche l'aumento del nostro spread che oggi è risalito intorno ai 150 punti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Con piacere, almeno vedo che molti ascoltatori non hanno perso il senso dell'umorismo, perché ascoltando le parole del ministro Padoan, che ha detto che il bail-in va introdotto con delicatezza, il gioco, soprattutto diciamo il gioco genovese con il bail-in da introdurre con delicatezza, non vi dico cosa sta scatenando, addirittura mariti che scrivono che anche le mogli sono d'accordo che il bail-in vada introdotto con delicatezza. Vabbè, non c'ero arrivato perché sono così, insomma, ancora un po' influenzato ma stordito da questo, da questa altalena continua. Va bene, introduciamo il bail-in con delicatezza. Non mi sembra però che siano giorni di bail-in con delicatezza. Andiamo avanti, e parliamo ancora di due cose, prima di arrivare alle BCC, perché nel decreto del governo oggi annunciato, un decreto sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato, c'è anche il decreto oggi attuativo della riforma della pubblica amministrazione sulle forze di polizia e la forestale, l'addio al corpo forestale fissato al 1 gennaio 2017. Si faranno, o si realizzeranno risparmi di 126 milioni di euro in tre anni, tra 2016 e 2018. Questa è la relazione tecnica del decreto attuativo della riforma della pubblica amministrazione su forestale e forze di polizia. Buona parte saranno assorbiti dai carabinieri e anche da altre forze di polizia, secondo i contingenti stabiliti. Oggi poi il ministro delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Mazzoncini, ha detto che lo sbarco in borsa slitta almeno al 2017. Beh, voglio dire, adesso cerchiamo di non rifare la cavolata che è stata fatta su Saipem, ecco. Manca solo che sbarchino le FS in borsa con questa borsa. Però ha aggiunto poi che ci sono 17 miliardi di euro di risorse aggiuntive per la rete ferroviaria italiana. Questo previsto dal ragionamento del contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana. 9 miliardi di aggiornamento 2015, altri 8 miliardi per l'aggiornamento 2016. Marco Ferrando, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, cosa ha deciso il governo ieri? Partiamo dalle parti più facili, tra virgolette, poi arriviamo alla BCC che è un po' più complicata, e mi riferisco al capitolo sofferenze bancarie. Diciamo, lo schema che è uscito, al di là dello snellimento, c'è una parte anche di snellimento sulla giustizia civile per quello che riguarda il fatto che le banche non ci possono mettere in media 8 anni, 7 anni, 8 mesi per riottenere, per ottenere le garanzie che avevano ottenuto sui, per avere le garanzie che avevano ottenuto sui crediti immobili in primo luogo, contro tempi molto più bassi. Leggevo delle statistiche oggi impressionanti, 4 anni e mezzo per il primo grado, 5 anni e quasi 6 per il secondo grado, quasi 8 se si arriva in Cassazione. Ma mi sembra che l'impianto generale non sia cambiato, con l'unica novità su questo tema dell'abolizione dell'imposta di registro per le vendite all'asta nel 2016. Sentiamo su questo il Presidente del Consiglio ieri in conferenza stampa. Il decreto sulle banche popolari di gennaio, oggi noi abbiamo dato la priorità al tema delle banche di credito cooperativo, all'accordo che il ministro Padoan ha ottenuto in Europa su quella che impropriamente viene chiamata mini bad bank, ma che è un sistema di garanzie e che il decreto legge ratifica, o meglio, sancisce come norma primaria, ad alcune misure del sistema di incoraggiamento alla risoluzione dei problemi legati a contenziosi giudiziari, mi riferisco alle vendite all'asta, che hanno una misura particolare, vale a dire l'esenzione per il 2016, per tutto il 2016 dell'imposta di registro. È un'operazione importante, vale più di 200 milioni, ed è un messaggio che noi diamo per semplificare questo problema abbastanza corposo e rilevante che abbiamo di crediti incagliati, deteriorati, non riscossi, in particolar modo nel sistema del credito, ma non solo nel sistema del credito. Quindi tutto ciò che è vendita di asta giudiziaria potrà per il 2016 non avere l'imposta di registro. Allora, Marco Ferrando, per il resto l'impianto è quello che abbiamo detto, no? Cioè la garanzia dello le banche creeranno una società ad hoc dove cartolarizzeranno, cioè impacchetteranno queste sofferenze per venderle sul mercato con una garanzia dello Stato che può essere concessa solo alle classi di maggiore qualità e che devono aver ottenuto un livello di rating da un'agenzia riconosciuta dalla BCE, E comunque una garanzia che è onerosa perché si paga. Si paga, sì, si paga anche in proporzione al rischio, perché queste società emetteranno dei titoli che dovranno avere un rating, e tanto più alto sarà il rating, quindi tanto minore sarà il rischio che le agenzie valuteranno, tanto meno pagheranno la garanzia. E tra l'altro si è scoperto oggi che lo sportello, diciamo così, del Tesoro rimarrà aperto 18 mesi, ma potrebbero esserci altri 18 mesi nel caso in cui, come sembra, la Commissione Europea dovesse autorizzare, diciamo, il BIS, sempre che funzioni, perché oggi c'è stato un briefing appunto in via 20 settembre. Al Ministero sono molto ottimisti, dicono che effettivamente questa misura, che è molto tecnica, quindi insomma forse non è ancora stata ben capita. È anche difficile da spiegare, aggiungo io. Esatto, però loro sono molto ottimisti sulle ricadute, quindi vedremo. Dopo il metodo e la pubblicità invece c'è la parte che insomma, va spiegata bene, perché le BCC da sole rappresentano, se non ricordo male, un quinto della bancabilità in Italia, quindi di quello che è l'attività bancaria in Italia, e hanno una grossissima presa sul territorio. C'è una soglia, i 200 milioni, il miliardo, la chiariremo dopo il meteo e la pubblicità, e poi inizieremo questa lunga pagina anche di analisi della borsa, fermo restando che, ripeto, è inutile cercare notizie nuove se notizie nuove non ci sono. Stiamo di nuovo assistendo a quello che abbiamo assistito la settimana scorsa e inizio di questa settimana, chiaro, con un elemento peggiore, perché ogni volta si scende un po' più in giù, per dirla proprio tutta. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Focus Economia. A 7:40 minuti. Allora, Marco Ferrando, la riforma delle banche di credito cooperativo, tra l'altro nel giorno in cui, ma ne parleremo più avanti, di Banca Etruria, ho dimenticato di dirlo come tema, ci mancherebbe se non facciamo Banca Etruria oggi, dopo che il Tribunale di Arezzo ha dichiarato lo stato di insolvenza della vecchia Banca Etruria e ha rigettato tutte le eccezioni di costituzionalità sul decreto salva banche presentate dagli avvocati di Lorenzo Rosi, l'ultimo presidente dell'istituto. Ma diciamo, in questo paese un avvocato non si nega a nessuno, ci mancherebbe. La borsa appena chiuso, sui minimi, meno 5,60%, Parigi meno 4%, Francoforte meno 3%, e va bene. Così, allora, Marco Ferrando, che cosa cambia, diciamo in maniera molto semplice, per le banche di credito cooperativo? Che cos'è questo miliardo come soglia e i 200 milioni come soglia? Che cosa sono? Sì, dunque, così come ci aspettavamo, visto che la ratio, l'obiettivo è quello di consolidare il sistema, tutte le BCC dovranno confluire sotto una capogruppo che dovrà avere un patrimonio minimo di un miliardo. Questo è il punto che prevedevamo. E che appunto risponde all'esigenza di fare in modo che il sistema funzioni e il capitale possa circolare da una banca all'altra in caso di necessità. La novità è che però è stata prevista di fatto una uscita di sicurezza, chiamiamola come vogliamo, perché le banche che hanno almeno 200 milioni di riserve, oggi o domani, nel senso che possono anche dotarsene di qui ai prossimi mesi, potranno chiedere di non entrare sotto un capogruppo, e però purché si trasformino in SPA. Questo quindi in società per azioni, come avviene per le popolari, come è obbligo fare per, esatto, le popolari, lasciando adesso la forma cooperativa. Questa è una, diciamo, una cosa inaspettata. Tra l'altro nel Consiglio dei Ministri di ieri sera c'è stato anche un po' di giallo, insomma, sembrava, sono circolate molte voci sulla versione definitiva di questo provvedimento. Questa è una, appunto, una novità che in parte contraddice, se vogliamo, lo spirito della riforma, perché di fatto, se la riforma doveva unificare il sistema, così si consente alle banche in teoria più forti di uscire, e questo non a caso sia Federcasse che Confcooperative oggi hanno un molto po' perplesse. Molto perplesse, sì. Tra l'altro devo dire che in fronte bancario oggi non c'entra nulla con le BCC, ma il numero uno di UbiBanca, Massia, ha detto di escludere in questo momento qualunque fusione con Monte dei Paschi di Siena, e abbiamo fatto colloqui, verificato se c'erano possibilità con altre banche. Queste possibilità ad oggi non c'erano, andiamo avanti con tutta serenità. Poi alla domanda matrimonio, dice: tendo a non commentare i fatti degli altri, posso solo dire che mi è accaduto in passato di fare la corte a una signora, all'epoca una ragazza, che poi ha scelto un altro. Nella vita succede, ho capito, però non è periodo per restare single, se vogliamo usare l'esempio di Massià, perché insomma in questo momento un po' di consolidamento nel settore bancario se lo aspettano. Tornando alle BCC, tu ricordavi come questo abbia sorpreso molti osservatori. Vorrei fare ascoltare il ministro dell'economia Padoan proprio sulla soglia dei 200 milioni di euro e poi chiederti perché secondo te hanno introdotto questa novità che di fatto riduce la portata della riforma. Un conto è dire che ci deve essere un'unica holding che deve valere almeno 1 miliardo di euro, sotto la quale possono esserci le BCC, si chiama Banca Centrale Sistema, se ho ben capito, una cosa del genere. Altra cosa è dire sì, le più piccole, quelle che non arrivano a 200 milioni di patrimonio, sono obbligate ad andare sotto questa grande holding, le altre possono restare BCC come adesso. La soglia è di 200 milioni, almeno allo stato attuale, e questo si fa presto a vedere perché sono adesso esattamente il numero, non glielo so dire, ma una decina più o meno di banche. Questo però vorrei sottolineare, non significa che tutte quelle banche devono, ma hanno la possibilità di. Noi vogliamo preservare varie forme di management e di governance bancaria, ma il sistema bancario nel suo complesso deve essere solido, quindi ciascuna unità bancaria deve avere una dimensione minima che consenta di operare con efficienza e con solidità nel nuovo contesto. Allora, perché secondo te non l'hanno fatto? Nel senso che se l'obiettivo è consolidare il sistema, cioè rendere le BCC più solide, dire no, tu non puoi stare da sola se hai 80 milioni, 100 milioni di euro di patrimonio, devi andare sotto questo grande cappello, non è che 200 milioni sia una cifra che ti mette al sicuro? Ma il motivo probabilmente è lo stesso per cui questa riforma è in gestazione da un anno, per cui le BCC sono tante, più di 350, quindi vuol dire 350 banche, 350 CDA, 350 possiamo dire interessi, territori che si portano dietro pressioni sulla politica, e evidentemente si è ritenuto che una way out fosse necessaria da un lato per evitare problemi di incostituzionalità, perché comunque c'era questo tema, si temeva, risulta al Ministero del Tesoro temevano che una forma blindata, diciamo così, potesse esporre il decreto a rischi di incostituzionalità, però probabilmente si è ascoltata la voce di chi nella capogruppo non ci voleva finire e quindi si è previsto la possibilità di non finirci dentro. Certo, lascia dei margini di incertezza, anche perché come dicevamo la storia dei 200 milioni è ballerina, nel senso che non uno la può anche cercare, quindi raccogliendo fondi sul mercato, quindi di fatto questo testo sembra far chiarezza, ma non tutta la chiarezza che si aspettava. Non dimentichiamo che un decreto passerà in Parlamento, quindi ci sarà modo evidentemente di modificarlo, e in ogni caso i tempi sono lunghi perché poi Banca d'Italia dovrà mettere un regolamento e quindi insomma siamo solo all'inizio, però diciamo che c'è qualche novità che ha un po' spiazzato tutti. Sì, è chiaro, io ho detto prima in maniera inesatta, non cambia niente, no, cambia nel senso che anche se vuoi uscire devi trasformarti in SPA, però su questo insomma la novità è chiara. I tempi di attuazione, perché adesso il governo ha fatto il decreto, Marco, l'ultima domanda che ho per te è rapidissimo, quando è che le banche insomma potranno iniziare a creare queste cartolarizzazioni esterne dove far confluire le sofferenze bancarie? Tornando alle cartolarizzazioni, questo in realtà il decreto, appunto, l'abbiamo visto ieri sera, stanotte, tempo di costituire l'SPV, quindi, che è questa società, diciamo, società veicolo, probabilmente con qualche partner finanziario, fondi e quant'altro, tempo di fare una telefonata a un'agenzia di rating e assoldarla perché inizia a valutare sottostante. Diciamo che ragionevolmente 2-3 mesi, 4 massimo per vedere le prime emissioni. Allora, grazie Marco Ferrando. Traffico e poi iniziamo a parlare, o meglio, se c'è anche Sara Monaci, parliamo subito della Popolare dell'Etruria, o se no iniziamo a raccontare la giornata di borsa e poi arriviamo alla Popolare dell'Etruria e anche al giudizio sui mercati. Focus Economia. Dice 17:49 minuti. Allora, meno 5,63% l'indice a 15.700 punti. E dicevo, siccome, come sanno tutti, quando tu fai meno 10, non è che se il giorno dopo tu fai più 10 hai recuperato. Mi guarda strano il tecnico. È ovvio che se noi a parte che non abbiamo mai fatto più di meno 10 più 10, ma il fare meno 8, meno 5, meno 4 e poi un giorno più 5 non ti permette di recuperare. Ogni volta che cali torni, o meglio scendi a un livello più basso. Infatti se i 16.500 punti più o meno dell'indice ci avevamo riportato al 2013, all'estate del 2013, adesso i 15.000 ci lasciano sempre lì, luglio, da agosto si scende a luglio, comunque iniziano ad essere un livello bassino, come livello del Mibitel. Sicuramente ti sei fatto fuori tutto il recupero della borsa dal 2013 ad adesso. E arriveremo a commentare, dico anche oggi, commentiamo solo che diciamo, le banche calano tra il, vi do la migliore, così ci capiamo subito, delle banche. Mediobanca che perde solo il 5,30% o Intesa San Paolo che perde solo il 6,80%, avremmo parlato di tonfo in altri casi, invece la migliore perché si confronta con UbiBanca che perde il 12,20%, il Monte dei Paschi il 9,90%, Popolare Emilia Romagna il 9,60%, il Banco Popolare l'8,70%. Però, come promesso, prima di arrivare qui e riagganciandomi a quello che abbiamo appena raccontato sulle BCC, c'è una banca popolare, ex popolare, ormai tutti devono trasformarsi, che è quella dell'Etruria, dove oggi abbiamo avuto novità. L'ex presidente dell'istituto, uno di quelli che ha contribuito non poco al dissesto della popolare dell'Etruria, Lorenzo Rosi, secondo quantomeno i PM che indagano, aveva presentato un'eccezione di incostituzionalità nei confronti del decreto salvabanche del governo, oggi rigettato. E Sara Monaci del Sole 24 Ore, buonasera. Sì, buonasera. Il Tribunale di Arezzo invece ha dichiarato lo stato di insolvenza sulla banca, sulla vecchia Banca Etruria e non la nuova Banca Etruria. Questo che cosa porterà? Beh, questa è una svolta importantissima perché dichiarare lo stato di insolvenza ci prepara un prossimo passaggio inevitabile, anzi diciamo ormai già pronto, da parte della Procura, ovvero un'indagine per bancarotta fraudolenta, che sicuramente è un reato societario molto più grave di quelli che abbiamo visto finora: ostacolo alla vigilanza, mancata comunicazione del conflitto di interessi, emissione di fatture false. Ora per i PM si apre una fase nuova e molto delicata, e quindi non si esclude anche un nuovo invio massiccio, direi, di avvisi di garanzia, perché evidentemente si prenderanno in considerazione tutti gli atti e le decisioni degli ultimi 10 anni con i due consigli di amministrazione dove era seduto anche il padre della ministra Maria Elena Boschi. Quindi si apre anche perché una fase politica. Vale ricordare che prima il padre del ministro era seduto nel consiglio di amministrazione del penultimo consiglio di amministrazione. Esatto, il CDA Fornasari. E poi Fornasari, democristiano, fanfaniano di lungo corso, abbiamo letto tutta la sua biografia in questi in queste settimane. I famosi potentati locali, mi ricordo ancora quando i presidenti, gli amministratori delegati delle banche popolari mi dicevano: no, dobbiamo avere il nostro statuto diverso perché noi siamo legati al territorio. Sì, legati al territorio, poi abbiamo scoperto in alcuni casi come. Comunque non voglio tornare sulla polemica della riforma dei popolari. Dicevo, il Pierluigi Boschi è stato prima nel consiglio di amministrazione, poi quando cambia il consiglio di amministrazione e arriva Lorenzo Rosi a fare il presidente, lui diventa vicepresidente. Sì, vicepresidente, spieghiamo, senza deleghe, che è diciamo anche un po' il paravento dietro a cui si è anche in qualche modo celata questa figura, perché evidentemente un vicepresidente che non aveva deleghe specifiche, si è detto, non ha evidentemente un ruolo rilevante nelle decisioni. Credo che però di fronte a un'accusa di bancarotta fraudolenta diventa difficile poi fare delle eccezioni di questo tipo, salvo poi ovviamente archiviare in una seconda frase, però adesso ovviamente non possiamo dire ancora non ci sono indagati, rimaniamo quindi soltanto a quanto sta accadendo, però evidentemente una inchiesta per bancarotta fraudolenta è un passaggio grave e importante dentro l'analisi del dissesto finanziario della banca. Ecco, su questo ricordiamo un'altra cosa che già lì c'è un dubbio, insomma, e lo ricordo come tale. Attenzione, il vecchio CDA, quello di Fornasari, fu multato dagli ispettori della Banca d'Italia, sì. E fu multato anche Pierluigi Boschi, 124.000 euro anche di multa, di più, forse 150.000. Per quello che avevano fatto. È strano, o meglio, lo dico ancora in un altro modo, ma come ti viene in mente di mettere un membro del Consiglio di Amministrazione multato per il ruolo avuto nel precedente Consiglio di Amministrazione a vicepresidente della stessa banca nel nuovo Consiglio di Amministrazione? No, voglio dire, anche un problema di opportunità avrebbe dovuto bloccare Boschi. Comunque, nel frattempo il Consiglio Superiore della Magistratura, CSM, non ha chiuso il caso del procuratore di Arezzo Roberto Rossi e ha deciso di andare avanti nell'istruttoria chiedendo ulteriori atti al procuratore generale di Firenze, perché sulle inchieste che Rossi ha fatto sul padre del ministro Boschi e di cui Rossi si era occupato o direttamente come capo ufficio. Rossi comunque è quello che sta coordinando ancora le indagini. Sta coordinando le indagini e dovrà ulteriormente chiarire. Pochi giorni fa ha già inviato tutti i procedimenti che riguardavano Boschi e che erano stati archiviati. Oggi si apprende che il CSM chiede alla Procura Generale di Firenze un'ulteriore documentazione. Vuole vedere due procedimenti in particolare su cui c'era stata già una indagine archiviata, la seconda in fase di archiviazione, che aveva portato non a una sanzione di tipo penale ma al pagamento amministrativo, perché l'azienda agricola di Boschi ha avuto nel tempo dei fari da parte dell'Agenzia delle Entrate per mancato pagamento di contributi e per evasione fiscale, tutte cose che risultano sanate in questo momento. In una battuta, perché siamo in chiusura, secondo te arriveranno poi le visite di garanzia a questo punto? Sì, anche io a Boschi? Penso di sì. Io penso di sì, non vorrei sbilanciarmi, insomma, come dire, si dice sempre qui lo dico e qui lo nego, però la mia sensazione, diciamo, da giornalista che segue da mesi il caso, è che evidentemente è a questo punto inevitabile, direi. Vabbè, se rigetti e dichiari insolvente la vecchia banca. Sì, è un po' nei fatti. Dovrebbero spiegare, se non facessero quello, dovrebbero spiegare perché non lo fanno. Ecco. Sì, diventa delicato al contrario. Ecco. Delicato al contrario. Grazie anche a Sara Monaci, GR24. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in Digital Radio. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Focus Economia. Sette minuti, allora iniziamo o continuiamo il racconto di questa giornata di borsa, dopo aver commentato e cercato di analizzare il decreto del governo sulle BCC e sulla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, la decisione della magistratura sulla Popolare Etruria, meno 5,60% Milano, meno 4% Parigi, meno 3% Francoforte, meno 2,40% Londra, perde quasi 2 punti percentuali anche il Dow Jones in questo momento, euro sempre un po' in rafforzamento a 1,1354. Allora, A parte A2A che guadagna lo 0,80%, Banca Mediolanum che perde solo l'1,70%, Snam che perde solo l'1,90%, Terna che perde solo il 2%, poi c'è Exor che perde il 2,30%, ST Microelectronics il 2,60%, Tod's il 2,70%, Moncler pure, Tenaris perde il 3%. Dicevo, a parte queste, con l'eccezione della Pop Milano, che è l'unica banca che perde poco oggi, perde il 2,1%, tutto il resto perde dal 3% in su. Nel caso specifico, le banche, UbiBank meno 12,1% e chiude con a 2,97 euro, Saipem meno 12%, Monte dei Paschi meno 9,90%, Popolare Emilia Romagna meno 9,60%, CNH Industrial meno 9,14%, Telecom meno 8,90%, Banco Popolare meno 8,70%, Azimut meno 8,60%, Generali meno 8,50%, Unipol meno 7,70%, Ferrari meno 7,5%, Mediaset meno 7,30%, Unicredit meno 7%, Unipol Sai meno 7%, come Finmeccanica, Intel San Paolo meno 6,80%, Buzzi Unicem pure, meno 6, il 6,60% lo perde Anima Holding, il 6% è il calo di Eni, Campari meno 5,5% come Prismian, Mediobanca meno 5,30%, Fiat meno 5%, Atlantia meno 4,30% come le Poste Italiane, il 4% lo perde Yux Net-a-Porter e Italcementi, il 3,80% è il calo di Luxottica, il 3,60% quello di Enel ed Enel Green Power. Allora, Flavia Carletti, vuoi che commentiamo la Popolare di Milano? Nel senso che è l'unico titolo che oggi perde molto meno rispetto agli altri delle banche. Beh, no, veramente oggi le notizie, diciamo, più sulle banche, il caso di giornata è stato UbiBanca, sì, che è stata la peggiore tra non solo proprio dell'S&P, del FTSE MIB, ma proprio di tutte le banche. E oggi ha pubblicato i conti, a quanto pare hanno proprio deluso il mercato, soprattutto quello che non è piaciuto, non tanto il fatto che comunque l'anno è stato chiuso inutile, ma comunque è stato a deludere è stato soprattutto il margine di interesse e altri dati, in particolare la perdita del quarto trimestre che è stata superiore all'attesa, è stata di 45,2 milioni, mentre l'attesa era per una perdita molto più limitata tra i 10 e i 12 milioni di euro. E poi la debolezza delle banche e di UBI si è andata a innescare in una giornata che comunque è stata negativa per tutte le banche europee, a partire da Societe Generale, che è stata un po' la capofila di sì, tutte le vendite che si sono poi generate sui mercati europei. Quanto ha perso nel finale Societe Generale? Ha perso più del 12% alla fine, dopo aver essere scesa anche quasi del 15% nel corso delle contrattazioni. E quello che la banca ha fatto nel 2015 un utile di 4 miliardi con un rialzo del 49,3% rispetto all'anno precedente, però gli analisti, a quanto pare gli operatori, non hanno proprio apprezzato il fatto che ha dato delle indicazioni per il 2016 che non riuscirà a rispettare alcuni target proprio riguardo alla redditività e in più il quarto trimestre del 2015 è stato inferiore all'attese, quindi in qualche modo in questi conti delle banche si vede c'è un riflesso di quello che è stato un po' il peggioramento della situazione economica globale che sta preoccupando i mercati, che in qualche modo secondo la maggior parte degli operatori oggi ha di nuovo tenuto banco insieme alla debolezza del petrolio che è sceso di nuovo $26 al barile. Deutsche Bank, per la precisione, perché abbiamo visto che i CDS e quindi credit default swaps su Deutsche Bank sono saliti di nuovo, il premio che si paga al rischio, diciamo, su Deutsche Bank è salito a 265, più alto adesso il rischio su Deutsche Bank che su Unicredit. Sì, Deutsche Bank ha perso il 6,14% oggi alla borsa di Francoforte ed è stato il secondo titolo peggiore di quelli del DAX 30, che è il segmento a maggiore capitalizzazione tedesco, e peggio di lei è riuscita a fare solo un'altra banca, Commerzbank, che ha perso il 6,57%. Quindi pesanti cali anche in Deutsche Bank e Commerzbank. Tu fai bene a ricordare che è stata Societe Generale oggi a dare là le vendite, ma voglio dire, c'è sempre un buon motivo per vendere in questo periodo, mettiamola così, perché tanto non ci sono buoni motivi, come hanno spiegato molti operatori, per comprare, nel senso di comprare e stare in borsa per investire nel medio termine. Vorrei farvi ascoltare che cosa ha detto oggi a proposito dei mercati finanziari l'amministratore delegato di Schroeder, Giuseppe Marsi, di Schroeder Italy SIM. Deborah Rosciani nel corso di Quardenale gli ha chiesto, insomma, che cosa sta capitando, sono le sofferenze bancarie o è il timore dei titoli tossici? Io vedo che c'è veramente un rischio grosso della tenuta dell'euro per diversi motivi. vi faccio un esempio: se uno ha una famiglia, sono due fratelli, uno molto ricco e uno molto povero, la media della famiglia è comunque una famiglia ricca. La media di Trilussa, media, dei tre polli. Sì, assolutamente. Se il fratello ricco aiuta il fratello povero prestandogli dei soldi a un tasso da usura al 20%, probabilmente il fratello ricco continuerà ad essere ricco e il fratello povero continuerà ad essere sempre più povero. Quindi, chi è in Europa il fratello ricco e il fratello povero? Allora, lei dove vede queste due? Allora l'Europa è nata da una libera volontà di associarsi tra stati uguali. Adesso l'Europa è una unione tra creditori e debitori, dove i creditori stanno dettando le regole ai debitori e le regole che stanno dettando sono a favore dei creditori, non sono a favore dei debitori. Quindi vi faccio un esempio: se in Europa c'è meno del 5% di disoccupazione in Germania e in Italia c'è il 12%, bisognerebbe far sì che in Italia la disoccupazione diminuisca. Come fare? Detassazione probabilmente degli utili societari, favorire nuove assunzioni. Misure eccetera. Che a Bruxelles direbbero sono aiuti di Stato, quindi certo, non vanno bene. Aumentano il debito italiano, eccetera, eccetera. Quindi che cosa chiediamo invece alle banche italiane? Di coprire rischi che solo noi abbiamo. Guarda caso non copriamo i rischi che hanno le banche tedesche, ad esempio sul finanziamento all'esportazione cinese. Mm-hmm. Perché non scordiamo che poi le banche tedesche sono esposte verso la Cina esattamente come erano, forse di più di come erano esposte in Grecia, quando siamo intervenuti a sostenere di fatto il ripagamento dei creditori dei debitori greci alle banche tedesche. Allora, non mi stupirebbe se, andando avanti così, ci fosse un finanziamento dell'Europa alla Cina per far fronte all'indebitamento delle banche tedesche. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non è possibile che un'unione ci sia se chi sta meglio non aiuta il povero. È come se l'Italia avesse due economie, una del sud, certo, e una del nord. Oh, lo dice l'amministratore delegato di Schroders Italy, non lo dice il sottoscritto, però è quanto abbiamo cercato di spiegare per mesi e anche anni, riferito all'idea della famiglia. Cioè, tu non puoi avere una famiglia in cui i fratelli che hanno speso troppo e devono rientrare dai debiti, Italia in primis, devono fare i sacrifici. Se però quelli che sono ricchi non spendono per la casa in cui tutti abitano, la casa viene giù, perché quelli indebitati non possono spendere, infatti devono tagliare. Quelli ricchi pensano solo alle esportazioni in Cina e assicurare le esportazioni in Cina e non investono nelle loro infrastrutture, nella loro casa, perché l'Europa è la casa anche dei tedeschi fino a prova contraria, e nelle loro infrastrutture, generando un percorso virtuoso interno di crescita, di consumi. Chiaro che la casa poi non tiene, perché nessuno pensa alla manutenzione. Detto questo, Flavia Carletti, c'è qualcosa che si è salvato oggi? Beh, l'unico titolo appunto che si è salvato è stato A2H, chiuso con un più 0,83%, ed è stato, diciamo, più che altro perché è stato un titolo penalizzato come gli altri anche molto rispetto a tanti energetici da inizio anno, e in più comunque anche vedendo Snam e Terna, che sono due titoli che hanno retto più degli altri, sono in qualche modo le utilities che hanno retto di più sul mercato, perché sono comunque società che operano in mercati un po' più regolamentati e quindi più protette rispetto alle fluttuazioni dell'economia e più riparate in caso dovesse esserci veramente questo rallentamento temuto e magari fosse più grave del previsto. Allora, dottor Marco Piersimoni, lei è senior portfolio manager di Pictet Asset Management, praticamente è tutto un inglesismo, contrariamente a quello che vuole questo programma. Buonasera innanzitutto. Pronto? Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori. Prima di andare sul traffico, è d'accordo con quanto diceva il suo collega di Schroders, e soprattutto è questo il timore sullo sfondo, che questa unione bancaria non c'è, c'è un bail-in che rischia di aggravare i problemi invece che risolverli, ed è in discussione la tenuta stessa dell'Europa? Ma in parte è condivisibile l'analisi del collega. Cioè, sicuramente il rischio euro è un rischio che è come il fuoco sotto la cenere, nel senso, per il momento c'è l'ombrello nucleare della BCE che lo tiene sotto controllo, ma è un rischio che non è risolto, e la fatica che si sta facendo sul concretizzare l'unione bancaria e bail-in ne è una dimostrazione, per cui è un rischio che è pronto a ritornare in ogni momento. Ma voi oggi avete venduto? Noi oggi non abbiamo venduto, ma io non credo che questo sia comunque il rischio principale. Il rischio principale, sapete qual è? È il rischio che la valigetta del dottore, e il dottore sono le banche centrali, in questo momento sia sbagliata. Il taglio dei tassi negativi di tutti, non ultimo oggi la Svezia, è una medicina che per le banche è veleno. Diciamoci la verità. E soprattutto fatto in maniera non coordinata. Se ognuno va per la sua strada, la Bank of Japan, la banca centrale svedese, arriverà la banca centrale europea, la quale almeno con la Fed si parla o tende a parlarsi, questa è una medicina veramente i cui effetti collaterali superano di gran lunga, ma di gran lunga, i potenziali effetti positivi. Allora, no, vedo che alcuni continuano con l'esempio fatto dal ministro delegato di Scena del mio, ma se c'è in casa un fratello onesto e l'altro delinquente, alcuni dicono che usa droga, cosa facciamo? Facciamo mantenere il delinquente con l'onesto? No, allora, però decidiamo, se tu non vuoi stare in casa con quella persona, abbandoni la casa, allora abbandoniamo la casa dell'euro. Io sto solo dicendo che se tu e la Germania è l'unico paese che ha avuto un vantaggio in questi anni di crisi, vuoi ancora stare nell'euro, devi farci stare dentro la famiglia dell'euro, se no poi dici no guarda non voglio avere nulla a che fare con altri paesi, a quel punto però il passaggio successivo lo devi fare da solo, nel senso che devi andartene di casa. Comunque dopo il traffico vorrei capire, lei citava le banche centrali e quindi lo scetticismo nei confronti del loro atteggiamento, aggiungo io anche lo scetticismo nei confronti di quello che potrebbero efficacemente fare adesso le banche centrali con i tassi a zero. Vorrei capire se anche dal suo punto di vista il grande assente in questo momento sono dichiarazioni delle istituzioni politiche, non di carattere monetario come sono le banche centrali. Dopo il traffico. Focus Economia. Allora, dicevo, dottor Pierre Simoni, è vero che voi siete tutti molto, che il mercato è scettico, cioè, allora, qui c'è un problema, i bot e altri investimenti, titoli di Stato, rendono nulla, c'è un problema di far rendere questa enorme liquidità che si è generata anche grazie alla politica molto accomodante delle banche centrali, statunitense, ma anche europea, però non avete voglia di stare su questo mercato, a me sembra che poi cali tutto, non è che cali solo l'Europa, ma concentriamoci sull'Europa. Nessuno vuole prendere posizioni lunghe, ho capito bene? C'è parecchio scetticismo, assolutamente. Non la sento più. Prego. Mi sentite? Sì. Se mettiamo insieme i problemi europei, quelli segnalati sulla tenuta dell'euro, i problemi del bail-in, qualche dubbio anche su insomma, la portanza di questa ripresa, ti voglio ce n'è poca. Così come solitamente sa quando torna veramente una gran voglia? Quando i prezzi sono a saldo, ossia quando ci sono delle occasioni d'acquisto strepitose in cui uno dice vabbè, tutto sommato, tanto peggio di così non può però andare. Mi scusi, poi quando io vedo che Deutsche Bank o Commerzbank hanno perso oltre il 34-37% da inizio anno, la media delle banche italiane è meno 34, anche lì 35, mai contati da inizio anno, non sono già prezzi da saldo? Non ancora, non è detto, nel senso sono prezzi giusti, però quando vuoi veramente comprare a mani basse vuoi prezzi da saldo. Questi sono prezzi giusti, sono prezzi che ci portano su quelli che sono valori di equilibrio, che però in un momento in cui il sentiment è molto negativo tu vuoi gli sconti, e in questo momento ancora gli sconti non ci sono. Questo è il motivo per cui il mercato fa fatica a trovare una base, ossia le fasi convulse come queste finiscono quando entrano in gioco i famosi spiriti animaleschi, no? dell'investitore che dice quello che il prezzo ha fatto è molto peggio di quello che in realtà può succedere, a questo punto si compra. Non siamo lontani da questo momento, ma ancora non ci siamo, e questo è il motivo della grossa volatilità. Sì, devo dire che però guardando la borsa di oggi, nei giorni scorsi, nelle scorse sedute, cala tutto, non è che cagliano solo le banche, calano tutti i titoli industriali, i titoli legati all'export, al lusso, insomma non è che non mi sembra che ci sia una gran capacità di essere selettivi, cioè potrei capire se calassero solo le banche. Ma non c'è un tema che è solo finanziario. Attenzione, qui noi ci possiamo concentrare sull'Europa che è un mercato importante, ma la grossa paura del mercato in questo momento oltre all'Europa è oltre alla Cina è lo stato dell'economia americana. Questo è il vero punto di domanda, ossia ma ci sarà una recessione non domani, ma forse dopodomani in America? Questo è il grosso punto di domanda che fa paura, E la risposta a questa domanda è la risposta cruciale, per cui se uno guarda i dati dice ma no, ma siamo molto lontani da una recessione in America, eppure il settore manifatturiero americano è in recessione, il settore dei servizi, gli ultimissimi dati non se la passa tanto bene, rimaniamo agganciati come sempre alla speranza che il consumatore americano consumi per tutti, no? Il consumatore americano è sempre quello che ha tirato fuori l'economia mondiale dalle secche grazie alle sue enormi capacità di spesa, ma in questo contesto in cui il consumatore americano potrebbe consumare tanto, in realtà consuma giusto, e questo è un forte punto di domanda, per cui noi abbiamo problemi in Europa, problemi in Cina, ma sono problemi noti. Il punto di domanda vero è: ma l'America, ma sta veramente tanto bene o sta benino, oppure in realtà sull'orlo di una recessione? Questo è il motivo e la grossa incertezza sui mercati. Mi scusi, mi dico un'ultima cosa, Pier Simoni, ma perché adesso? Cioè perché vi siete svegliati, non dico lei, ma da gennaio in poi? Perché insomma, qui siamo tornati ai livelli di metà 2013, ma l'abbiamo fatto in un mese e mezzo, scarso. Sì, sì, certo. Allora, diciamo, per non commettere istigazioni di suicidio collettivo, diciamo che la fase finale del movimento è sempre quella più violenta. Il movimento inizia in Europa, i massimi in Europa purtroppo sono di aprile 2014-2015, i massimi degli Stati Uniti sono nell'estate, per cui il movimento è iniziato da qualche mese, nelle ultime settimane è accelerato ed è diventato violento, che è l'analisi tipica dell'ultima gamba ribassista, che è sempre quella più violenta. Per cui effettivamente quello che stiamo vedendo è un'accelerazione, ma di un movimento che già c'è stato. Sicuramente il flusso di notizie, torno ancora sul punto americano, di tipo macro sull'America non hanno contribuito di recente a consolare o a rassegnare. E anche ieri Janet Yellen. Vorrei capire se a questo punto il bene rifugio per petrolio, no, commodities no. L'oro si è un po' mosso oggi, uno direbbe bene, investo tutto nel mattone. Oggi Scenari Immobiliari ha presentato il rapporto 2016. Il presidente Mario Breglia, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Io volevo darle più spazio, ma come vede la giornata è stata abbastanza convulsa. Il mercato immobiliare sarà in Italia nel 2016 un bene rifugio? Anche perché sa che c'è chi dice che quando le banche inizieranno a collocare sul mercato tutti gli immobili che hanno garanzia delle sofferenze, diciamo, saranno dolori. Mi ha fatto un'analisi in questi giorni sui beni messi sul mercato che attraverso le aste. Beh, nel 2015 sono stati messi in asta circa 90.000 immobili, di cui due terzi case. I beni che sono stati collocati in asta non sono più di 15.000. Quindi un'inezia rispetto al mercato immobiliare, che dove girano circa 1 milione di pezzi all'anno tra case, negozi, uffici e così via. Perché purtroppo non è la capacità delle banche o la velocità delle banche di mettere i beni diciamo in vendita e non performing loan, è la difficoltà del sistema delle aste, il sistema giudiziario, il sistema delle perizie, che allunga molto i tempi. C'è cosa che per vendere una casa che è andata in sofferenza in provincia di Bolzano ci vogliono 2 anni, ce ne vogliono 15 in Sicilia. Vabbè, questo quindi, però è il problema del, come funziona, è il problema del paese, ma ovviamente si riflette anche in questo mercato di cui stiamo parlando. Senta, oggi. Ma le vostre previsioni invece sul 2016 per il mercato immobiliare? Ma il 2016 ovviamente aveva un mercato leggermente positivo, leggermente migliore rispetto a quello del 2015. Non parliamo di grandi numeri, perché sentivo prima la borsa che è scesa diciamo rispetto ai picchi del 30%, è esattamente quello che è successo al mercato immobiliare italiano ed europeo. Rispetto ai massimi, oggi siamo in termini di fatturato dal 32 al 35% in meno. Quindi gli incrementi che stiamo misurando, che sono stati del 2-3% nel 2015, quest'anno qualcosa in più, non sono di una ripresa, ma di un mantenimento del trend attuale che è in miglioramento. Diciamo, anche i mercati immobiliari hanno bisogno. Quindi dove prevedete rialzi dei prezzi, in quale tipologia soprattutto? In nessuna tipologia. Nessuna tipologia, perfetto. A meno di segmenti particolari come negozi in centro, alberghi di 5 stelle, ma insomma non fanno questo il mercato, questo, il resto rimane abbastanza stabile. Ma con l'inflazione allo 0% è difficile immaginare che qualche bene, compresa la casa, possa aumentare. Quindi, se ho ben capito, Breglia, per concludere, prezzi stabili anche nel 2016? Prezzi stabili, leggero miglioramento se l'economia riprende e se l'inflazione almeno va all'1%, i prezzi dovrebbero salire l'1-2%, ma legati all'inflazione. Se l'inflazione non sale, prezzi fermi. Allora, grazie anche a Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, e grazie chiaramente anche al, vedo molti commenti però non posso continuare, a Marco Pier Simoni, Senior Portfolio Manager di Pictet Asset Management. Uno mi scrive: basta investimenti, spendiamo i soldi. Sì, se uno li ha, basta investimenti, spendiamo i soldi. Intanto l'auguro di buona serata da Sebastiano Barisoni. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Tornerà anche la classifica poco invidiabile sugli sprechi della pubblica amministrazione della serie Piove sul bagnato. Radio 24, la passione si sente.